Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani. Oggi ci occupiamo del biscottificio Gentilini, intervista a cura di Maria Chiara Grandis. L'impresa Gentilini, biscotti romani DOC, fin dal 1890, oggi ha 16 milioni di euro l'anno di fatturato, 80 dipendenti. Ne racconta origini e sviluppi l'attuale presidente della società, Paolo Gentilini, nipote del fondatore. La famiglia Reale era all'epoca residente a Roma, ovviamente, e noi portavamo i biscotti a Villa Savoia, che è l'attuale Villa Ada, e alle cucine di Villa Savoia. Papà, quando era piccolo, accompagnava l'autista con un furgone che avevamo, che mi pare fosse un furgone Ford addirittura. Poi calcoli che la moglie di Pietro Gentilini, mia nonna, Matilde, era torinese, quindi era inevitabile, insomma, una certa collegamento con la famiglia Reale, non parentela, ma collegamento perlomeno regionale. E quindi abbiamo fatto i biscotti Vittorio, i biscotti Umberto, i biscotti Margherita, e di questi qua i Vittorio li facciamo ancora. Era il 1890 quando nonno Pietro Emiliano apriva il suo primo forno pasticceria nella capitale. 120 anni dopo, a capo dell'azienda che produce i biscotti Gentilini, c'è Paolo, nipote del fondatore. Il primissimo negozio di nonno è stato aperto dalle parti della stazione Termini. Lì è stato però pochissimo e... quella d'altronde era una zona, via del Viminale, via Principe Eugenio, via Manin, è una zona che se oggi uno fa un giro trova ancora tantissime attività dello stesso periodo, dei ristoranti, dei negozi, della fine dell'Ottocento. Lui si spostò quasi subito però in via del Corso. E da lì iniziò uno sviluppo, i suoi prodotti avevano successo, i biscotti, le fette biscottate, la pasticceria in genere. Anche se lui comunque si è sempre più specializzato nei prodotti da forno. Il panettone è stato, credo, tra i primi a Roma a fare il panettone. E a Via del Corso da lì iniziò subito uno sviluppo dell'attività commerciale con altri tre o quattro punti vendita. Uno era all'inizio di Via Tiburtina a San Lorenzo, uno a Piazza Colonna, di cui abbiamo una foto, ed uno in Via Nazionale, di cui invece abbiamo un piatto inciso, un piatto di latta del periodo. Gli affari vanno bene, la famiglia cresce. Presto nonno Pietro decide di allargare l'azienda, dove si trasferisce a Porta Pia. Appena fuori Porta Pia c'è questo, stava sorgendo la nuova Roma, dopo la presa, no, da parte dei piemontesi di Porta Pia del 1870. Ai primi del Novecento inizia la costruzione dello stabilimento di via Novara, angolo via Alessandria, con annesso il villino dove ovviamente abitava. Questa era anche un'altra caratteristica dell'epoca. E lì a via Novara è proprio uno stabilimento, abbiamo la foto, abbiamo alcune foto degli impianti, abbiamo le foto degli operatori che impastano la pasta del panettone. Lì praticamente la famiglia cresce e lì passa poi la seconda parte della sua vita, perché purtroppo nel 43, durante la guerra, muore. Però insomma in questi anni, negli anni, anche nei famosi anni 20, gli anni del periodo fascista, l'azienda ha un certo sviluppo, conoscenza, queste scatole di latta che lui ne ha fatte tantissime, viaggiano per tutta Italia, anche per tutta Europa, abbiamo delle dimostrazioni, vengono mandate sul fronte, abbiamo delle cartoline di soldati che stanno sul fronte dell'Alto Adige, del Veneto, che ringraziano per i prodotti che gli vengono inviati. Tra queste c'è anche la cartolina di Unzapponini, che sono gli attuali proprietari della Guida Monaci, con i quali nonno aveva fatto degli affari a Roma, e uno di questi stava sul fronte e ringrazia per questi biscotti che gli sono stati inviati. Beh, nonno era una persona molto generosa, molto attenta, come mio padre del resto, alle esigenze e ai diritti degli altri, soprattutto di chi lavorava con noi e ovviamente che faceva il suo dovere. Nonno era uno molto legato alle sue origini, che erano emiliane, ha avuto lui come poteva, tornava a questa casa che si era comprato con grande soddisfazione a Vergato, vicino Porretta Terme, in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Questa casa, come lo stabilimento di Via Novara, fu venduta nel dopoguerra. Il legame con la terra di origine, secondo me, va sempre mantenuto e per noi è Roma. Però il legame col paese di mio nonno mi piacerebbe in qualche modo ricollegarlo. Non so come, mi piacerebbe molto fare questa cosa prima, insomma, di diventare troppo vecchio. Quando nonno Pietro muore, a guidare l'azienda arriva il papà di Paolo, Ettore Gentilini. Ma la guerra lo porta lontano da Roma e anche dagli affari di famiglia. Papà era il più piccolo dei figli, lui era del 1911. Purtroppo è stato l'unico che ha fatto la seconda guerra mondiale. Purtroppo fu fatto prigioniero quasi subito in Africa orientale, in Africa del Nord, non ricordo bene esattamente. E fortunatamente fu fatto prigioniero delle truppe inglesi, i quali i prigionieri di guerra li trattavano un po' meglio, tra virgolette. E fu portato però lontanissimo in India. Da lì aveva le notizie della famiglia, erano scarsissime. Purtroppo, quando ritorna nel 45, nonno è già morto, nonna sta molto male, e insomma furono dei periodi molto duri. L'azienda era stata sequestrata prima dai tedeschi, poi dagli americani, che ci facevano della sorta di muffin per le truppe, chiamiamole, d'occupazione. E insomma, chiaramente fu un periodo molto triste. Fortunatamente però l'azienda era integra, non aveva subito bombardamenti, perché nella zona di Corso Trieste e via Alessandria non c'erano stati bombardamenti, come in altre zone di Roma. E fortunatamente quindi l'attività riprese con l'ausilio di due fratelli e delle sorelle. C'era molto lavoro, gli anni 60, lo sviluppo, il boom economico, eccetera, eccetera. Dopo sono stati dei periodi molto belli da un punto di vista commerciale. Poi chiaramente però sono venuti gli anni 70 con i problemi che hanno conseguito tutto quel periodo, no? Il periodo del sindacato molto duro, il problema anche purtroppo a fine degli anni 70, i primi anni 80, dei sequestri di persona, che c'erano in tutta Italia, anche a Roma ci furono dei sequestri terribili dove erano presi di mira gli imprenditori. Insomma, ci sono stati degli anni dopo anche piuttosto duri, ma fortunatamente noi che abbiamo avuto un'attività molto locale, molto, molto regionale, non abbiamo risentito tantissimo di questi grossi problemi, insomma. Di poche parole, autoritario, severo, così Paolo Gentilini descrive il padre sul lavoro. Un uomo che seguiva personalmente tutte le fasi di produzione, dall'impasto dei biscotti al confezionamento, tanto da progettare alcuni dei macchinari. Purtroppo abbiamo solo i disegni di un paio. Perché lui addirittura fece la macchina per fare i biscotti Margherita, altro biscotto dei reali di Savoia. Tant'è vero che nonno lo mandò alle Olimpiadi di Berlino del 36 come premio per aver fatto questa macchina per fare le margherite. Purtroppo questa macchina per fare le margherite, nel trasferimento da via Novara a via Tiburtina, andò smarrita. Sa, nel dopoguerra non c'era tanto questo senso del conservare, era tutta roba vecchia, e la roba vecchia poi porta via spazio, bisogna tenerla, non è semplice. Quindi non c'era moltissimo, è rimasto pochissimo di queste cose. Paolo Gentilini si iscrive a economia e commercio, ma l'università gli va stretta. Così la mattina va in azienda a dare una mano e alla fine degli anni 90 ne assume la guida. Ma è stata graduale la cosa, perché per un certo periodo di tempo c'è stato un mio cugino, che poi è uscito dalla società. E poi ne è subentrato un altro, perché anch'io, essendo papà il più piccolo dei fratelli Gentilini, io sono il più piccolo dei cugini Gentilini, che sono. E di conseguenza ho dovuto fare una certa gavetta, giustamente. Quindi sono stato prima in ufficio, poi nell'ufficio commerciale, poi sono stato un po' di tempo nello stabilimento, perché chiaramente bisogna sapere come si fanno i prodotti che poi uno va a vendere. E poi finalmente nel 97, a 40 anni, sono diventato presidente della Gentilini. E lo sono tuttora. Sono 80 le persone che lavorano nella sede di Via Tiburtina a Roma. A fianco ci sono lo spaccio e il museo del latte, che custodisce i ricordi della famiglia Gentilini. Fra questi ci sono le scatole di latta dei biscotti, recuperate via internet e fra i mercati delle capitali europee. L'unico punto vendita è all'aeroporto di Fiumicino. Un negozio ovviamente monomarca, col nostro marchio, che vende tutti i nostri prodotti, quindi biscotti, fette biscottate, pasticceria, marmellate, miele, eccetera, eccetera. E nei periodi anche lievitati da ricorrenza, che devo dire che sta andando abbastanza bene. E il format del negozio di Fiumicino mi piacerebbe molto riprodurlo a Roma. In una zona centrale mi piacerebbe molto aprire il classico forno romano che, oltre a vendere i nostri prodotti, vendesse anche però ovviamente la classica pizza bianca alla romana, la pizza al pomodoro alla romana, i ciambelloni, le crostate. Mi piacerebbe molto, e sarebbe veramente quello un tornare alle origini. Un legame quello con la capitale mai interrotto, ma i biscotti Gentilini oggi viaggiano per tutto il mondo e con 25 milioni di euro di fatturato annuo l'azienda pare non conoscere crisi. Noi abbiamo, pensi, più clienti negli Stati Uniti che clienti in Europa, perché negli Stati Uniti c'è molta curiosità verso i prodotti italiani, cioè, diciamo, verso le nazioni che hanno avuto più emigrazione, no? Quindi Stati Uniti, Canada, qualcosa in Australia, qualcosa in altre regioni così del mondo un po'. Però diciamo che fondamentalmente il consumatore europeo non ci conosce. E abbiamo anche chiaramente dei concorrenti molto forti in Europa, in Francia, in Germania, dove poi la qualità italiana è molto apprezzata, e dove però si pensa pure molto al prezzo, e noi chiaramente non siamo ancora molto competitivi con il prezzo, però confidiamo in futuro di poter migliorare da questo punto di vista, anche perché è in progetto la costruzione di un nuovo stabilimento. Sempre in provincia di Roma. Fra i classici Oswego e Novellini sono arrivati anche i Lupacchiotti e gli Aquilotti, i biscotti delle squadre di calcio della capitale. E abbiamo utilizzato questa ricetta perché era particolare, molto buona, molto nutriente anche per gli sportivi, diciamo. Perché ci sono le uova, il latte fresco, il miele, quindi insomma è un prodotto piuttosto ricco ma molto buono, e devo dire che sono venuti benissimo, tant'è vero che adesso stiamo coinvolgendo le altre squadre, i napolissimi e poi sarà il turno dei biscotti dell'Inter e poi di quelli del Milan, e poi io penso verranno pure quelli della Juventus. Ma voi siete laziali o romanisti? Ma veramente qui dentro, tra i dipendenti, la maggior parte sono romanisti. La mia famiglia sono romanisti, io non sono romanista. Devo dire, a me dispiace dirlo, ma sono interista, anche se quest'anno sono contentissimo di essere interista, perché quest'anno abbiamo vinto tutto. Pietro, 17 anni, porta lo stesso nome del bisnonno, fondatore della Gentilini. A lui spetterà il compito di continuare la tradizione familiare. A 17 anni a settembre, quindi ha voglia. No, però quest'anno devo dire fa il liceo scientifico, è andato anche piuttosto bene. Quindi sono contento, perché si è impegnato e insomma poi ci saranno anche altre persone di famiglia che potrebbero entrare, però insomma a lui è l'ultimo Gentilini rimasto, quindi mi auguro che sì, perché avevo un altro cugino che ha lavorato qui per tanti anni, ma è andato in pensione e purtroppo non ha figli, e quindi insomma mi auguro che lui segua questa strada, penso che sia giusto così. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.